Buongiorno a tutti, questo è Il Cammino e io sono Gigi D'Agostino. Un suono per gli amici e per i parenti. Movimenti incoerenti. Appiccia un po' sta musica. Il Cammino di Gigi D'Agostino. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Buona, buona, buona. Benvenuti nel mondo che non c'è. Musical, mental. Musical. Questo è Il Cammino di Gigi D'Agostino. Mi conosco lei. Mental. Musical, mental, mental. Gigi D'Agostino, un DJ con le pal. Che sta suonando Gigi D'Agostino. Bogacci, via questo. Il Cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Non ferma i suoi passi. Non ferma i suoi passi. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Andiamo, regà! Mandare i vostri sms. Il numero è il seguente: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Elena, ma che c'è, sta qualche messaggio per maestro? Certo. Leggi bene, sennò ti estraggo le ginocchia o la pota. Buone feste a te, Gigi. E a tutta la famiglia danzante. La famiglia danzante. Chi è questo qua? Francesco da Muro Lucano. Dai,

appuntamento calabrese. Questa sera, giovedì 28 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona alla discoteca Disco Incontro, San Marco Argentano, Cosenza. Mentre domani sera, venerdì 29 dicembre, discoteca Ayers Rock One, Lamezia Terme, Catanzaro. Niente, allora ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Arrivate il folclorista, sono Sara da Gallarate. Senza di te il mio mondo non sarebbe a colori. Ieri era il mio 21esimo compleanno. Fammi ascoltare Silence. Gigi, sono triste perché non potrò essere il 31 dicembre all'officina emotiva a Rimini. Dedico Silence a me e a tutti quelli che non ci saranno. Patrizio da Sondrio. Stay with me forever. Notte di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Discoteca Altro Mondo. Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20, se arrivi tardi ti riguidenti. We'll be right back. suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, quella canzone che fa... Ho fatto un sogno di quelli strani. Vorrei dedicarla ad Elisa, Tony da Campofranco. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi cura delle cose. Tutte le grandi conquiste sono state caratterizzate da estrema attenzione, infinita diligenza, anche verso il minimo dettaglio. Albert Hubbard. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Il cammino di Gigi D'Agostino. La vita è più bella quando suona la campanella. Soldini per i soldatini, cittadini, paladini, dei partici, i miei fucili. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. A colpi di machete si esce dalla giungla. Cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte scontrosa, a volte più dura. Ma la vostra mente viaggia sicura. Viaggia sicura. Siamo stati messi su questa terra per scoprire quale sia la nostra strada. La nostra strada. E non saremo mai felici se viviamo secondo l'idea che si fa qualcun altro della vita. È vero, è vero. James Van Praagh. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Movimenti incoerenti. Ciao Gigi, sono Luca. Al 2 di Cigliano hai spaccato molto. Ho fatto più di 1000 chilometri per ascoltarti. Un saluto ai miei compagni di viaggio Ash, Manuel, Joel e tutti gli altri. Ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, ma sta partendo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Movimenti incoerenti. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3-3-3-6-4-3-6-7-6-6-2. Cammino di Gigi D'Agostino. La grande famiglia danzante. La notte di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Lasciati andare, è la prima volta, è la prima volta. lasciati andare. Se per te la, per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Lasciati andare, lasciati andare. Se per te la, per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Musical mentale. Musical mentale. Musical mentale. Gigi D'Agostino, un DJ con le palle. Capito come? Ovvio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Appuntamento calabrese. Questa sera, giovedì 28 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona alla discoteca Incontro, San Marco Argentano, Cosenza. Mentre venerdì 29 dicembre, discoteca Ayers Rock One, Lamezia Terme, Catanzaro. È al cammino del Gigi D'Agostino. Costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Passi. Il cammino attraverso la foresta non è lungo se si ama la persona che si va a trovare. Aforisma africano. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili. Giovanni Falcone. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Un saluto piccolino al nostro Gigi D'Agostino, dai dottori di una piccola farmacia di Torino. Grazie per aver reso magica la notte del 26 a Cigliano, come del resto anche ogni nostro pomeriggio di lavoro. Marco e gli altri della farmacia. Enrico, ti amo alla follia, tua Princi. Un saluto a mio papà, Martina di Albenga. Fermati di suonar perché devo esplicare. Fumar provoca cancer mortal de pulmon. Hola, poto. È meglio essere pazzo per conto proprio che savio secondo la volontà altrui. Friedrich Nietzsche. La tua musica mi fa ballare e urlare. A Capodanno vorrei venire all'officina emotiva, a Rimini, ma non mi lasciano i miei genitori. Ah, e cazzemma. Giulia da Mantova. Che dici? Sono Daniel da Torino. Volevo salutare Roby, la tamarra di Santa Rita. Il cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connessi. Per capire e devastarmi della luce intorno a me. Mentre scrivo sta canzone sono in viaggio e penso che Spagna e Francia sti paesaggi mi raccontano di te. Non c'è cosa e non c'è luogo che non sappia di noi due. Bene pari al nostro amore con le ali mie e tue. Non ha senso una ragione che ti induce a dirmi che soffri dopo un ore e ore, quella io non fa per te. Ma che senso quando soffro solo io so che mi fa. Io non voglio star tranquillo, voglio questa vita qua. Mi distruggo con violenza ma in alto penso che se non soffro non capisco solo io. Può sembrare una canzone di un bizzarro iettatore, ma son solo dei sentieri di un dottore pensatore. Non è vero che son triste, sono sensazioni miste. Sto devasto che mi ha avvolto, mi ha ravito, mi ha sconvolto. Malinconico e struggente è il mio mondo, sì lo so, ma piuttosto che la plastica io lascio e me ne vo. Ciao Gigi, sono Salvatore da San Cipriano d'Anversa. Potresti mettere una canzone per noi? Sì. La dedico alla mia ragazza Maddi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. di Gigi D'Agostino. Un piccolo paese fuori dal mondo. Sono Tongi da Foggia. Mando un caloroso augurio di buone feste a un'amica molto speciale che purtroppo è in ospedale. Lei è Paola. Auguri. Amo Valentina, ma lei non può amarmi. Chissà se un giorno mi passa. Mi fai ascoltare una melodia dove posso viaggiare qualche minuto. Massimo da Torino. I drive around all day long. I listen to radio songs. I'm taking heart to become what you want for your life. I stop and talk. Deep in my heart, I stumble over your smile. I'm taking po' di perplessità. Mando la pubblicità. La vita è più bella quando suona la campanella. Vai di cassa. Innamorarsi non è soltanto essere attratti da una persona. Vederla bella e desiderabile. È un mutamento interiore di tutto l'essere. Francesco Alberoni. Qua ci starebbe bene la rima, ma meglio di no. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Grande Gigi, ho 45 anni e ti ascolto sempre molto volentieri. Auguri a tutti quanti, da Massimo, Reggio Emilia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20, se arrivi tardi ti rigo i denti. We'll be right back.